Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, noi ripartiamo proprio dalla manovra, quella da 27 miliardi presentata sabato, arrivata a Bruxelles secondo i tempi, appunto sabato era infatti la scadenza. Bruxelles a sua volta avrà un mese di tempo per esprimersi, ma già cominciano a filtrare quelle che sarebbero le prime considerazioni. Secondo infatti alcune fonti, i numeri indicati da Palazzo Chigi non sono quelli che l'Europa si aspettava. Allora sentiamo due protagonisti di questa manovra a livello governativo, poi un servizio. Partiamo da Matteo Renzi. Sono curioso di capire quali rilievi. Che so, l'Unione Europea vuole forse discutere delle nostre spese sull'immigrazione? Ho una brillante idea per gli europei per ridurre le spese sull'immigrazione. Inizino a darci una mano loro, visto che stanno prevalendo gli egoismi e non sta prevalendo la solidarietà. Appena l'Unione Europea inizierà a darci una mano sulla questione dell'immigrazione, vedrete che le spese in Italia si abbasseranno. Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, questa mattina intervenendo a Radio 24, lo sentiamo. Ma lei prevede che passerà in Europa? Sì, io prevedo di sì. L'Europa si divertirà e diletterà a giocare con i numeri, le singole misure, eccetera, perché questo è quello che fanno ormai. Ma alla fine la manovra riduce il deficit rispetto all'anno scorso passerà. E c'è un sacco di investimenti, quindi io credo che passerà. Questo era dunque Carlo Calenda. Adesso sentiamo il punto di Livia Zancaner. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma solo un no comment da Bruxelles sulla manovra che oggi arriva sul tavolo della Commissione europea. I dubbi sui contenuti sono noti. I numeri indicati da Palazzo Chigi non sono quelli che l'Europa si aspettava, dicono alcune fonti, a partire dal rapporto deficit-PIL al 2,3% rispetto all'1,8% promesso inizialmente. Il target include le spese per terremoto ed emergenza migranti, che l'Italia vuole fuori dal patto di stabilità e calcola in 1,3% del PIL, circa 4,8 miliardi. Sulle cifre però non c'è chiarezza e in Europa nessuno ha ancora visto i documenti. I negoziati dunque vanno avanti. Bruxelles sarebbe disposta a concedere un 2,2%, quindi 1,6 miliardi di euro di deficit in meno che il governo dovrebbe recuperare da qualche altra parte. L'Europa ha in teoria un mese di tempo, fino al 16 novembre, per esprimersi sulla legge di bilancio, anche se le prime valutazioni arriveranno già al 9. Il tutto senza dimenticare la campagna elettorale e l'appuntamento del 4 dicembre con il referendum. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Naturalmente aggiornamenti nei giorni, nelle ore, ma diciamo nei giorni a venire. Invece concludiamo su una notizia che si lega al grande tema del rapporto Caritas sulla povertà. Da Bruxelles una nota dice: l'Italia è tra i paesi che hanno registrato i maggiori aumenti del rischio di povertà ed esclusione sociale tra il 2008 e il 2015, quindi gli anni della crisi, con una crescita di 3,2 punti percentuali. L'Italia, secondo i dati resi noti oggi da Eurostat, si è piazzata al quarto posto alle spalle di Grecia, Cipro e Spagna, quarto posto tra i paesi appunto in cui nel corso degli ultimi sette anni, o meglio nei sette anni 2008-2015, il rischio è aumentato maggiormente. E quando sono le 14:05:10 è tutto per questo primo appuntamento di settimana. Adesso come sempre la linea va a tutti i convocati. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.